Dove sei? Io ti sto cercando, non ti sento, per favore, lo ripeti, tu lo sai, veramente come che lo sai, tutta quella volta. Lo cerco con la lente di gradimento, e quella volta che io non lo fare, quella volta che sembra non lo fare, quella volta non lo fare, quella volta ce lo faccia, e quella volta che sembra tutto normale. Cerco qualcosa che mi va per sempre, sempre, sempre, sempre. Quella volta non spengo le luci, quella volta lì, quando me ne vado a casa, le spengo le luci, sì. Quella volta non lo so fare, quella volta che non devo fare, molto più interessante, quella cosa che devo fare, molto, molto di quello trepido che devo fare, se come fare. Oh yeah, oh todo todo, ma me veri de pe. Cerco quella cosa che devo fare, metto con il cuore, e il papà che mi sta avvisando, quella volta che non devo fare gli altri, quella volta che questa volta commentate capodanno, quella volta che la cosa è come gli agigliato, quella volta che non tremo, il trepido come la valle, mi si scorgiacca, ma non come gli altri, chiedo da mamma, quella volta che lo sembro, metto carti, e come gli altri, sembro quasi molto intelligente, so che questa volta non è così fantastico, veramente io ti sto cercando, veramente nonno, io sono quello che lo devo fare, quello che quella volta che sembra molto facile, nonno Gianni ti sto cercando, già verrà, già veramente bene, cosa gli altri quella volta non lo so fare, veramente ora ti sto cercando, mi senti? Non ho sentito nulla, quella volta ti sto cercando, non mi senti, quella volta non ho sentito, ripetemelo per favore. Basta.